Hey, c'è lo zoo, zoo, zoo, zoo. Pippo Palmieri alla console, so, so, so, so. Io muovo il collo e sciallo un po', un po', un po', un po'. Alzo il volume, non lo so, so, so, so. Yeah, yeah. Marco Mazzoli con il Porsche e tutti gli altri.